1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 7:20 minuti, pronti a leggere i giornali. Vi ricordo anche che oggi torneremo a occuparci del finanziamento pubblico ai partiti, perché vogliamo capire a che punto è questo disegno di legge che il governo ha messo a punto per cambiare il finanziamento. Vi ricordate, qualche giorno fa pareva il toccasana per venire incontro alle stanze dei cittadini che dicono: ma insomma basta questo finanziamento pubblico ai partiti, almeno la gente comune. Altri pensano invece che un finanziamento ci debba essere. Pare che il decreto sia un po' invischiato nelle maglie della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Intanto, che succederà a luglio? Che succederà? Questi 91 milioni di euro che spettano ai partiti come prima tranche verranno dati, appunto, distribuiti ai vari partiti? Pare proprio di sì, a parte il Movimento 5 Stelle che, come sapete, ha già detto: rinunceremo a questa quota. In ogni caso ne parleremo più avanti, avremo ospite un esponente del Movimento 5 Stelle, Riccardo Fraccaro, onorevole del Movimento 5 Stelle, insieme al deputato e tesoriere del PDL Maurizio Bianconi, che torna da noi per parlare su questo tema. Ora andiamo appunto a leggere i giornali. In questo lunedì 24 giugno, intanto i titoli. Il Sole 24 Ore nell'edizione del lunedì apre sul processo civile: giustizia, la mediazione raddoppia. Sono le novità previste dal decreto del fare, questa espressione che per ora è un decreto molto del dire. Poi la questione IVA, ormai siamo alle strette. Il Corriere della Sera: IVA, 1 miliardo per il rinvio, questo è il titolo di prima pagina. Repubblica: solo 1 miliardo per il lavoro, pronto il piano giovani. Il Giornale: la prima bugia di Letta, il premier scarica il barile sull'IVA, l'aumento deciso da Berlusconi ma il decreto è di Monti, scrive il Giornale. La Stampa: i sindacati, patto con Letta, c'è un'intervista a Bonanni della CISL. Il Messaggero: lavoro, il piano parte dal sud. Il Secolo: Letta, IVA, ora basta con i diktat, lo ha detto ieri da Luce Annunziata. L'Unità: non si può aumentare l'IVA. Letta: imposta decisa dal PDL, ma troveremo una soluzione. Mentre l'apertura del Fatto Quotidiano, l'edizione del lunedì, è dedicata alla Sardegna, la colata perfetta sulla cementificazione di alcune zone straordinarie dell'Italia, in questo caso la Sardegna. Ma si parte da che cosa? Beh, Josefa Idem, la ministra Josefa Idem. Se si leggono oggi i giornali, la vicenda dell'IVA, dell'IMU, della casa palestra, dei lavori, dei possibili abusi edilizi su cui indagherà da oggi anche, e indaga pare, la magistratura, beh, pare davvero in una situazione in cui io rido e scherzo un po' anche sul mio profilo Twitter a dire partita oggi, ed è vero, l'ottava settimana decisiva per la riforma elettorale e l'ottava settimana decisiva per l'abolizione delle province. Oggi invece sembra proprio il giorno decisivo, questa volta senza scherzi, per le sorti politiche di Josefa Idem. Oggi la decisione con il premier, pressing sul ministro per le dimissioni, così titola il Corriere della Sera. Tutti i giornali dedicano una pagina, alcuni anche mettono come notizia politica più importante del giorno. Josefa Idem, la ministra, fa un'altra intervista dopo quella Repubblica, dopo la conferenza stampa abbastanza surreale con avvocato al fianco. Oggi parla il Corriere della Sera, Alessandra Arachi, la intervista, pagina 11. Mi stanno massacrando, spiegherò tutto a Enrico. Questa vicenda è assurda, è un massacro, un clima da linciaggio. Porterò le carte, spiegherò bene come sono andate le cose, sono fiduciosa che capirà tutte le dinamiche, lascerò decidere a lui. Le polemiche sono pretestuose, esigo che mi si creda perché le carte spiegano tutto. Non sono furbetta, ho sbagliato ma ho chiesto scusa e sto mettendomi in regola. In che senso? Chiede il Corriere. Ho presentato 2 anni fa una sanatoria per i lavori edili, alla quale era da allegare anche la SCIA, segnalazione certificata di inizio attività. Quest'ultima procedura non è stata attivata, me lo hanno fatto notare dopo un controllo e la pratica è stata adattata alle richieste del Comune. A pratica conclusa mi diranno quanto dovrò integrare di ICI. Apprendo poi dalla stampa che i magistrati stanno indagando su di me, mi diranno cosa mi imputano. Mi viene da pensare che potrebbe esserci un'indagine sui miei dati e i documenti riservati ai personale usciti dagli uffici del comune, finiti su un quotidiano. E ancora si difende: guardi che i giornalisti tedeschi non hanno scritto nulla di questo perché hanno valutato la scarsa rilevanza dei fatti, hanno capito quello che abbiamo spiegato in conferenza stampa, cioè che non c'è nulla di così grave e che tutto è cominciato con un articoletto su un giornale locale suggerito da un consigliere comunale del PDL di Ravenna. Poi è arrivato il massacro. Insomma, si difende così. Stiamo parlando di una palestra di 120 metri quadri nella quale non c'era un'attività commerciale a fini di lucro, ma un'attività sociale. Si faceva ginnastica, c'era molta vita sociale. Non ho commesso abusi edilizi, quando il comune ha fatto il suo controllo non ne ha rilevati, non ho commesso alcun reato, nemmeno nel venire assunta dopo 5 anni che avevo fatto l'assessore. Ho il diritto di avere un lavoro o no? Insomma, polemiche sempre più forti, ma Josefa idem si difende così. Che si dimetta è davvero possibile. Il Fatto Quotidiano, per esempio, con Davide Vecchia a pagina 3 la mette in maniera molto dura. Letta non fa sconti, attese oggi le dimissioni da ministro, attese per oggi. Il Presidente del Consiglio la riceverà per la seconda volta in pochi giorni, le chiederà di lasciare l'incarico per il bene del Paese e del Partito Democratico. Scrive dunque il Fatto Quotidiano, sembra una cosa abbastanza di prassi. Oggi, tra l'altro, per Repubblica dedica 2 pagine a questo tema. I vigili saranno da oggi nella casa palestra per far partire la verifica sull'eventuale abuso edilizio. C'è sulla Stampa anche qui un'intera pagina, a pagina 5, caso idem sul tavolo di Letta, oggi decide sulle dimissioni. C'è anche la testimonianza di un compaesano di Josefa idem, che dice: così mi sono iscritto alla palestra. Certo, mi sono iscritto a fine marzo 2007, la tessera me la fece il marito, 30 euro di iscrizione alla Standiana e 60 euro al mese. Poi dopo un po' è arrivato anche Maurizio Patanè, lo conoscevo, prima era istruttore alla palestra di Bagnacavallo, dopo 5 mesi ho smesso, ma la idem l'ho vista, ti faceva vergognare, lei sulla panca tirava su 130 kg. E vabbè, insomma, in questo l'atleta Josefa idem sicuramente tirava su più chili di questa persona. Un'altra persona, Fabrizio Bezzi: mi sono iscritto nel 2008, 30 euro la tessera e 60 al mese. Mi facevano la scheda, ci andavano un po' tutti, dal ragazzino alla signora di mezza età, la idem non l'ho mai vista. Poi ho smesso perché gli spogliatoi erano un po' troppo spartani. Insomma, vabbè, testimonianze di persone che dicono: in quella palestra pagavo e andavo. Anche per il Messaggero una pagina, quella telefonata del Premier, le spiegazioni non convincenti. Vabbè, mi sa che oggi parleremo in serata di ex ministro Josefa idem, ma staremo a vedere gli sviluppi della giornata. In ogni caso voglio rimanere sul Messaggero per raccontarvi, visto che si parla tanto di IVA e da qui ripartiremo dopo la pubblicità, che cosa Adelaide Pierucci a pagina 4 del Messaggero racconta come storia. Sentite, sentite bene, cari italiani. Questa è un po' una notizia da mani sul volante. Sbagliò l'IVA nel 1973, 73, io avevo 3 anni, ma il processo comincia ora. Dovrà presentarsi in un'aula di giustizia il prossimo settembre, dopo 23 anni dal giorno in cui pensava che la vicenda fosse chiusa e risolta, vittima di questo triste record giudiziario un rosticcere romano che oggi ha 80 anni. Nel 73, per un errato pagamento dell'IVA, l'artigiano si era ritrovato a dover sborsare 10 milioni di lire. La commissione tributaria di secondo grado aveva accertato poi che il pagamento e il condono era avvenuto, e nel 90 aveva dichiarato estinto il procedimento. Questo almeno pensava il rosticcere, ma dopo 23 anni di silenzio, e dunque dal 90, quando pensava che tutto fosse concluso, i giudici tributari si sono fatti risentire. Nel 91 l'ufficio IVA aveva presentato un nuovo ricorso, la commissione che si occupa dei vecchi ricorsi tributari di terzo grado, ora di competenza della Cassazione, ha deciso di convocarlo in aula. Ma per quanto tempo un contribuente può essere perseguitato? Si è sfogato così questo ottantenne, difeso dal all'avvocato Stefano Palmieri, che lo assiste, ha dovuto però deluderlo e dire bisogna recuperare tutto, i carteggi, all'epoca in copia carbone, affrontare il processo, c'è la convocazione. Le grane non sono finite, insomma non ci si può sbagliare, Francesco non ha più la sua bottega dal 1982, non ha più la sua bottega, ma dovrà presentarsi a settembre per chiarire la vicenda di un'IVA presentata male, lui dice sanata, nel 1973. Ma dove vuole andare un paese così? Ma dove vogliamo andare? In pubblicità al massimo. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. Siamo qui alle 7:36 minuti. Allora, una delle notizie che trovate più sviluppata sui giornali è la questione dell'IVA. Ormai si avvicina la data del 1 luglio, fatidica sul possibile aumento dell'IVA. Ieri il premier Enrico Letta è andato da Lucia Annunziata su Rai 3 e ha parlato anche di questo. Intanto l'accusa politica deciso quando c'era Berlusconi, questo è il titolo, Letta e l'aumento dell'IVA di pagina 2 del Corriere della Sera, che tra l'altro porta il giornale a innescare una polemica politica. In prima pagina del giornale il titolo è la prima bugia di Letta, e poi a pagina 3 Roberto Scafuri racconta in un'intera pagina sull'IVA la prima bugia di Letta, quando invece fu decisa con Monti, e c'è anche un'intervista di Fabrizio Ravoni all'ex sottosegretario all'economia Gianfranco Polillo che racconta in un primo momento non si parla di IVA e non lo fa nemmeno il governo Monti per coprire quei 4 miliardi, i 4 miliardi che erano stati richiesti, un taglio delle agevolazioni pari a 4 miliardi nel 2013, e 20 nel 2014, attesi dall'introduzione della delega fiscale. Il governo Monti, racconta Polillo, cambia la clausola di salvaguardia, non viene più concentrata sui tagli alla spesa sociale, viene introdotta una formula in cui si parla di rimodulazione delle aliquote delle imposte dirette, inclusa l'accisa. In questo caso si parla indirettamente di IVA quando si fa riferimento alle imposte indirette. La formula però viene giudicata poco incisiva a Bruxelles, e così allora col decreto Salva Italia il governo Monti ipotizza un aumento dell'IVA di 2 punti. Sarebbe dovuto scattare dal 1 ottobre 2012 al 31 dicembre 2013, poi un ulteriore aumento dello 0,5 a partire dal 2014. In questo modo era possibile dare copertura alle poste già contabilizzate in bilancio, qualora il Parlamento non le avesse approvate in tempo. Ma insomma, al di là della polemica politica, l'avete voluta voi, l'avete voluta no, l'avete voluta voi altri, la questione tecnica più importante è, e che si chiedono tutti gli italiani, è: questa benedetta IVA aumenterà oppure no? Ecco, allora è interessante qui leggere sul Corriere della Sera il retroscena di Stefania Tamburello, il piano di Saccomanni per il rinvio. Il ministro dell'economia Saccomanni, racconta il Corriere a pagina 3, avrebbe individuato quel miliardo con i tecnici ovviamente al tesoro, sarebbero riusciti a recuperare i fondi di circa 1 miliardo necessari a sostenere un rinvio dell'aumento dell'IVA di 3 mesi, quindi almeno per 3 mesi l'aumento dell'IVA. Nelle casse dello Stato non ci sono tesoretti o riserve, ma solo capitoli di spesa o di entrata da verificare per vedere se ci sono spazi da recuperare. 5 giorni mancano e fanno sapere al Ministero dell'Economia: penuria e miseria dello Stato fanno rima con spese e sprechi. E effettivamente c'è un articolo a corollario di questo pezzo a firma Sergio Rizzo, che punta sempre l'accento su questa cosa misteriosa sulla quale si interrogano gli italiani. Ma è possibile, visto che 8 miliardi, se si vuole mettere anche dentro il computo dell'IMU, per recuperare 8 miliardi, 4 per l'IVA e 4 per cancellare definitivamente l'IMU, cosa basta tagliare? L'1% della spesa pubblica. L'1% della spesa pubblica. E Sergio Rizzo ancora se lo chiede: per ridurre le tasse i soldi non si trovano mai. Un film già visto. E com'è possibile, tutti gli italiani si chiedono, che non si riesca a individuare un 1% di tagli alla spesa pubblica? O non il 10, non il 20, non il 50, ma l'1%. per recuperare questi 8 miliardi. Eppure pare un mistero, non ci sono tesoretti, non ci sono riserve, l'unico è tagliare la spesa pubblica, ma non si capisce bene come. Oggi in realtà Alberto Alesina e Francesco Giavazzi, che spesso firmano in due gli editoriali del Corriere della Sera, mettono per non finire sotto tutela, questo è il titolo dell'editoriale di prima pagina del Corriere, una ricetta. L'esecutivo tergiversa, questo è il punto di partenza, e senza una svolta radicale, scrivono Alesina e Giavazzi, nella politica economica capace di innescare un po' di crescita, al 3% del deficit europeo, deficit PIL, non lo rispetteremo neppure quest'anno. Ci stiamo infilando in una strada che ci porta dritto al fondo salva stati, a chiedere la Banca Centrale Europea di attivare l'OMT, cioè quel meccanismo di acquisto dei nostri titoli pubblici. Inutile illudersi che chiusa la procedura di infrazione si aprano più spazi, si apriranno solo se l'economia ricomincerà a crescere, e per farlo, ecco la ricetta di Alesina e Giavazzi, bisogna fare un piano credibile di riduzione di imposte e tagli alla spesa. Diciamo 50 miliardi di minori tasse sul lavoro da varare immediatamente e altrettanti di minore spese spalmate su un triennio e approvate dal Parlamento con procedura d'urgenza prima di sottoporle a Bruxelles. All'Europa dovremmo chiedere di concederci di superare per 2 anni la soglia del 3% in cambio di un piano credibile di tagli di spese, come peraltro già concessa Francia e Spagna. E poi nessun aumento dell'IVA. È un piano molto diverso dallo sfondamento unilaterale senza un programma di rientro. Altrimenti in autunno sfonderemo comunque il vincolo del 3%, lo spread risalirà, a quel punto l'unica strada sarà la solita, insomma altri aumenti di imposte per fare cassa velocemente, come fu costretto a fare Mario Monti 2 anni fa. Così scrivono Alesina e Giavazzi. I sindacati, Bonanni della CISL fa un'intervista sulla Stampa, la trovate a pagina 3, dice: sì, tagliare la spesa pubblica si può, ma in accordo con noi. Questa molto all'italiana, molto all'italiana. Ecco lì la domanda principale, il clou dell'intervista: siete disponibili a partecipare a un taglio alla spesa pubblica? Chiede Francesca Schianchi al leader della CISL. Senz'altro, ma il governo lo deve stabilire insieme a noi, visto che finora la spending review è stata lineare perché la classe politica non tocca mai i suoi capisaldi. Beh, ma tagliare la spesa pubblica vuol dire poter toccare anche i dipendenti pubblici. Meno di quelli che ci sono non è possibile. Subito Bonanni risponde così: sono 15 anni che non si fa il turnover. Faccia un esempio di qualcosa su cui siete disponibili a discutere. L'importante è che il governo concordi gli interventi con le parti sociali. Questo renderà più solide le proposte e anche il governo. Cioè non risponde su una cosa concreta, ma l'importante è che si faccia tutto con noi. Molto italiana come ricetta. In tutto questo è la settimana decisiva, giuro l'ho letta questa sul Sole 24 Ore, messa così in prima pagina, è la settimana decisiva per il rilancio del lavoro e dell'occupazione, soprattutto giovanile. Speriamo che sia davvero così. Rilancio del lavoro al via la fase 1, l'articolo lo trovate a pagina 7 sul Sole. Francesca Barbieri e Valentina Melis raccontano quella che si apre, cioè la settimana decisiva per l'appunto per il lavoro. Mercoledì il pacchetto Giovannini, salvo colpi di scena dell'ultima ora, approderà in Consiglio dei Ministri. E si prevede le cose che sono già state scritte: un primo banco di prova per assicurarsi per esempio la conquista dei fondi della Youth Guarantee, 400-600 milioni su una torta di 6 miliardi a disposizione dell'Unione Europea, che si vorrebbero anticipare e quindi offrire come rilancio di occupazione giovanile. Si vuole puntare a una modifica della riforma Fornero, riducendo a 10 a 20 giorni le pause tra un contratto e a termine quello successivo, oggi sono di 60 giorni. Insomma, si vuole anche fare un focus sulle aree svantaggiate, soprattutto ripartire dal sud. Ecco perché il titolo, per esempio, del Messaggero, il piano del lavoro riparte dal sud. Insomma, diciamo che ci sono delle cose che si punta a voler fare per cercare di lanciare il lavoro. A proposito di lavoro e di redditi, mi ha molto colpito l'articolo che Barbara Bisazza scrive sul Sole, trovate a pagina 11. È un'analisi molto interessante dei paesi dell'Ocse, Il titolo è L'Italia dei redditi disuguali. Siamo tra i paesi dell'OCSE quello che registra le maggiori differenze generazionali di stipendi. L'Italia è tra i paesi che registrano le maggiori disuguaglianze nella distribuzione dei redditi. Siamo secondi solo al Regno Unito nell'Unione Europea. Non solo, nel nostro paese la favola di Cenerentola si avvera con sempre minore frequenza perché le coppie tendono maggiormente a formarsi tra percettori di reddito dello stesso livello, cioè non c'è un grande squilibrio nelle coppie. Inoltre si allontanano sempre più gli estremi, cioè i ricchi sono sempre più ricchi e i poveri sono sempre più poveri, e la ricchezza si sposta sempre di più nei portafogli della popolazione più anziana. Ecco qui il divario generazionale, a scapito delle giovani generazioni che invece sono più povere rispetto a prima. Beh, poi ci sono tutte delle analisi più approfondite, ma questi sono i dati generali che mi hanno molto molto colpito. L'Italia dei redditi disuguali. Vabbè, questa è l'economia che è in primo piano, e poi la politica. Beh, oggi è il gran giorno della sentenza di primo grado al processo Ruby. Molto degli articoli si concentrano sull'attesa, con un Berlusconi dato già per pessimista e di umore nero. Ripartiamo da qui dopo il traffico. Faircam, e la tua merce viaggia sicura come te. Scopri di più su faircam.it. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Sì, vabbè, alle 7:47 minuti. Allora, Berlusconi per il Corriere della Sera, articolo di Paola Di Caro a pagina 8, è dato per un pessimista con l'umore nero, pronto al peggio, tanto già so come finisce male. Questo è un virgolettato attribuito a lui. Non ho fatto nulla, niente di male, questo processo non sta né in cielo né in terra, ma siccome vogliono farmi fuori dalla scena politica approfitteranno anche di questa occasione. Tra l'altro un Berlusconi che scrive il Corriere nello stesso articolo è pronto ora a tornare in TV dopo un silenzio di qualche giorno per dire la sua verità. Repubblica dice, ecco, tornerà in TV, l'unico foro che riconosce come attendibile. L'ultimo pressing sul Colle, Berlusconi non trova sponde, la mia condanna è già scritta. Il Fatto Quotidiano riepiloga tutto il processo. Il Corriere dice che oggi Ghedini e Longo faranno una mossa in extremis. La difesa presenterà una memoria di 7 pagine prima che i giudici si riuniscano in Camera di Consiglio per la sentenza di primo grado, mentre Giuliano Ferrara, udite che cosa fa. Scrive sull'editoriale tradizionale di prima pagina sul Foglio: da oggi giornata speciale, tolgo il saluto a chiunque si faccia mozzo orecchi. Scrive nel suo editoriale Giuliano Ferrara: fosse negativo il risultato per il Cavaliere, oggi mi lagno pubblicamente del malfatto, poi aspetto un minuto e appena vedo che qualche fottuto arcinemico di Berlusconi intende approfittarne, mi metto a morsicarlo con la mia povera dentatura sperando che esca sangue per poterlo copiosamente bere. Chi vuole costruire le sue fortune morali e politiche, addirittura finanziare i suoi origliamenti, pedinamenti, intercettazioni, testimonianze, documenti immersi nell'ambiguità di un riprovevole fenomeno di guardonismo da paese incivile, irrispettosamente verso la vita privata di una persona, è giudicabile alla stregua di un avversario personale, un italiano a cui togliere il saluto dall'alto di una superiorità indiscutibile, di un imperativo categorico, di una certezza, direi, kantiana. Intesi? Così Giuliano Ferrara minaccia, insomma, con la sua povera dentatura di azzannare al collo per bere il sangue di chiunque volesse mai approfittare della eventuale condanna di Berlusconi. Vabbè, staremo a vedere come andrà a finire. Io vi segnalo anche come politica che c'è una lettera di Romano Prodi che nel weekend è stato tirato in ballo a dire appoggerà Renzi. Prende carta e penna, scrive al Corriere della Sera: caro direttore, inizia così una lettera, la mia partita è finita, ora lascino anche altri. Ho affrontato sfide importanti battendo un opponente politico che ritengo non idoneo a governare il paese. Da parte mia ho cercato di portare avanti una cultura politica moderna. Riguardo al PD conservo non solo un senso di gratitudine ma anche numerose salde amicizie. Tuttavia in politica come in sport e in altre attività è preferibile scegliere il momento in cui finire il proprio lavoro prima che questo momento venga deciso da altri o da eventi esterni. giorni. Questi sono i motivi per cui, senza polemica, ho tralasciato di ritirare la tessera del PD, il cui rinnovamento e rafforzamento sono tuttavia essenziali al futuro della nostra democrazia. Quando il vostro giornalista mi ha chiesto se parteggiassi per l'uno o per l'altro dei potenziali candidati al congresso, ho risposto semplicemente: my game is over, che tradotto in italiano significa la mia gara è finita. E tra l'altro scrive Prodi poi: non mi fa certo dispiacere ricordare le due elezioni politiche nazionali di 96-2006. Riflettendo su tutto ciò, voglio infine augurarmi che anche chi è stato sconfitto nei due confronti diretti possa meditare sul fatto che non dovrebbe essere solo la mia gara a una fine. Insomma, si riferisce così a Silvio Berlusconi. Romano Prodi in prima pagina del Corriere della Sera. Di politica c'è anche la vicenda che tratteremo noi del finanziamento alla politica, con questa tranche di 91 milioni di euro che a luglio i partiti sono pronti a incassare, la prima tranche, il primo anno per le elezioni politiche. C'è chi vi rinuncia, con il Movimento 5 Stelle, che quindi in polemica con gli altri partiti dice: fate anche voi così, ma chissà se faranno così. C'è poi la cronaca estera. Tutti sono concentrati, i giornali, intanto alla situazione di salute di Nelson Mandela, che abbiamo sentito anche in giornale radio, in condizioni critiche. I giornali cominciano già a raccontare un po' in parte quello che è stato il simbolo, uno dei simboli non solo del Sudafrica, ma insomma della pacificazione anche a livello mondiale, e pare davvero che sia al termine dei suoi giorni, da qualche giorno in ospedale. Molti giornali si concentrano anche sulla vicenda di Edward Snowden, la talpa, quella che da Hong Kong ha rivelato il piano di grandi intercettazioni da parte dell'America. Mosca aiuta Snowden a fuggire in Ecuador. Ieri ha preso un aereo da Hong Kong, è andato a Mosca anche con l'aiuto, pare, di Julian Assange, un altro che quello di WikiLeaks, che è da tempo protetto dall'ambasciata ecuadoriana, e pare che anche Snowden voglia andare ora in Ecuador. Assange porta Snowden lontano dagli USA. C'è anche la crisi diplomatica, perché gli Stati Uniti sono molto arrabbiati con Hong Kong, che ha deciso di non arrestare Snowden. Vabbè, siamo al momento, anche oggi ripartiamo con la settimana con il premio La Carta Costa per l'articolo più inutile trovato sui quotidiani di oggi, con grande affetto per tutti i nostri colleghi. Oggi vince nettamente La Stampa, Barbecue, i segreti dei Master Chef, pagina 21, un'intera pagina della Stampa. Roselina Salemi: sembra facile, sembra sempre uguale, ma la cucina alla brace ha i suoi trucchi, e li sveliamo per voi con i consigli d'autore. I carciofi con l'olio, limone, la menta, come rosolare bene la carne e come mettere il sale e quando metterlo e se metterlo, e attenzione al fuoco, perché il fuoco può sembrare tutto uguale ma improvvisare è diabolico. Siate semplici, la verdura, la freschezza dei prodotti, insomma tutto questo nei consigli Barbecue, i segreti dei Master Chef, un'intera pagina della Stampa, pagina 21, e il mio appello a dire: ma insomma, colleghi della Stampa, la carta costa, soprattutto di questi tempi, e dunque mi raccomando, però se volete un bel barbecue, oggi sulla Stampa ci sono tutti i consigli del caso. Va bene, è il momento di dare la linea al giornale radio. Ci ritroviamo alle 8:15 con gli ospiti per parlare di finanziamento pubblico ai partiti.